La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Qualche settimana fa ci aveva scritto Pierpaolo, raccontando questa storia d'amore e il suo dolore è un dolore molto speciale. Si era innamorato a 17 anni a Perugia di una ragazza che adorava. Poi un giorno, per debolezza, per non sapersi sottrarre, era andato con un'altra. E lei, saputo la cosa, non aveva voluto più saperne. Bene, sono passati 30 anni, Pierpaolo ne ha 46, è ancora innamorato di Giulia. Ha avuto una moglie, una figlia, dalla moglie adesso è separato, ma la sua donna nella sua mente resta Giulia. Intanto anche Giulia si è sposata e ha fatto un brutto matrimonio con un uomo che l'ha demolita, causandole una grave depressione, che dura anche adesso che da un bel pezzo si è separata dal marito. E così, leggendo questa lettera, avevo spinto Pierpaolo a cercarla, a parlarle, a dirle cosa sentiva, sperando anche che questo potesse aiutarla. Ma è stato un consiglio ingenuo. Perché Pierpaolo lo aveva già fatto e c'è scritto di nuovo. Ma, signor Alberti, cosa crede? Che io Giulia non l'abbia cercata? Ho mosso mari e monti, un amico della procura di Milano, un'amica della polizia, una all'azienda sanitaria, e l'ho trovata. Non era cambiata quasi per niente, appena qualche filo bianco tra i ricci e quei due occhi meravigliosi, incendiari. Lei invece non mi ha riconosciuto subito, ha dovuto guardarmi negli occhi e poi è fuggita singhiozzando. Con lei c'era il fratello che, vista la reazione, ha pensato che le avessi fatto qualcosa di male e siamo quasi venuti alle mani. Eravamo ai primi spintoni prima che lei lo richiamasse dicendogli che non le avevo fatto nulla e gli avrebbe spiegato a casa. Si vede lontano un chilometro che soffre. Sono riuscita a ottenere anche il telefono, ma quando ho chiamato mi ha detto che non se la sentiva riparlare e ha messo giù. Quando ho richiamato ha risposto il fratello, con toni concilianti. Mi ha detto che Giulia sta male e non se la sente riparlarmi. A titolo personale mi ha detto che avrebbe provato a convincerla, forse ha capito le mie buonissime intenzioni. Però niente, non posso più chiamare, rischierei una denuncia per stalking, ma sono ancora innamorato di Giulia. È la mia età, non so quanto sia normale. Però è così e non posso farci nulla, anche se mi sento ridicolo. Però, pur non avendo nulla contro i fantasmi, Giulia la voglio viva, accanto a me, in riccioli e occhi di mare. Pierpaolo. No, ti prego di scusarmi se non ho capito, perché tu questo non l'avevi raccontato e io avevo immaginato che ti crogiolassi da lontano in un sentimento senza sbocco. Però, primo, l'unica cosa sbagliata in questa storia è che tu ti senta ridicolo, perché è una storia bellissima. E poi non credo affatto che tu rischi una denuncia per stalking. Non esageriamo con la paura di manifestare il nostro amore. È sacrosanto che lo stalking venga punito, perché quello vero e proprio è una forma di persecuzione atroce che può rovinare la vita a una persona. Però non è che ogni innamorato si deve sentire uno stalker. Quindi siano puniti per legge i veri persecutori, ma un innamorato è un innamorato. Conosco una studiosa di arabo, Samuela Pagani. La sua prima opera si intitolava «Della liceità dello sguardo». Lei mi ha fatto una grande difesa, una difesa appassionata del diritto dell'innamorato di manifestare il suo amore. Lei dice, ma allora tutti i grandi innamorati romantici sarebbero degli stalker. Allora il giovane Werther in galera, Proust all'ergastolo. Altrimenti poi diventa una forma di repressione, di autorepressione, dannosissima. Io non credo che un discreto corteggiamento possa far male, né a te né a lei. Ti dico quello che farei io. L'importante è che lei sappia che quel tuo errore ti ha rovinato la vita e che hai scontato una lunghissima condanna di rimpianto. Ti sei fatto 30 anni per quello sbaglio. Direi che ora che tu sia perdonato. Finora, a quanto ho capito, non c'è stata alcuna spiegazione. Ecco, secondo me, se tu le scrivessi delle care vecchie lettere di carta col francobollo, facendoti un po' conoscere come sei adesso, piano piano, piano piano, la gentilezza con cui ti ha trattato il fratello, che a quanto ho capito è proprio dalla tua parte e aspetta anche un aiuto, mi sembra un gran bel segnale. tu devi accostarla lentamente, con prudenza, come si fa con un animale selvatico, come si fa con una creatura spaventata, facendoti vivo di rado, ma con costanza, in punta di piedi, dicendo: non ti chiedo di parlarmi, ma almeno ascoltami. Lettere anche, se mi permetti un consiglio, brevi, non degli sproloquioni. Come scritto qui al Faro, delle lettere semplici, sintetiche e piene di verità. Quello che lei deve capire di queste lettere è solo questo. Io sono qui, sai, come il titolo della trasmissione di Matteo Caccia. Giulia, io sono qui. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Mio padre mi cerca con la sua faccia di cane bastonato, perché sa che non lo perdono. Troppe ne ha fatte. Ha perso il lavoro per arroganza e l'abbiamo pagata io e i miei fratelli con un'infanzia di privazioni. Poi ci ha lasciati e ha fatto un figlio con un'altra. Adesso sta bene coi soldi e fa il generoso, ma non può certo ripagare il passato. Vorrebbe mettere tutti d'accordo, ma i rancori ci sono. Quando fa dei passi per ricomprarmi, io mi nego. Non vale niente come uomo né come padre. Non posso fingere. Tu parli del padre come se ci trovassimo ai tempi del patriarcato, quando padre si scriveva maiuscolo, proteggeva la famiglia e i ruoli erano netti. Farebbe comodo, ma non ce ne sono più. Oggi un padre è come gli altri, come tutti noi. Oggi un padre è uno stecchino nella tempesta, è pieno di contraddizioni e non ha insegne. Essere padre, comunque, è da sempre il più antico pretesto di tragedia. Un padre sbaglia per definizione. E tu, va bene, capisco le privazioni da piccola, ma usi delle parole commerciali, molto spiacevoli, parlando di rapporti. Ripagare, ricomprare. Te ne suggerisco una dimenticata, che però fa stare molto bene chi la prova. Pietà. La guardiana del faro. Posso entrare? Ehi, Robert! Barbara! Benvenuto! È tornato Robert de Sellou, l'ortolano astrologo di Finisterre, e che è stato via molto tempo. Non gli chiediamo nemmeno perché. L'importante è che tu sia qui. Sono contenta di vederti. Ma sono rientrato in casa dopo un lungo periodo di studi fuori, Barbara. Perché... Studi di astrologia, naturalmente. Studi di astrologia. Però mi sto occupando di una cosa nuova. Sto studiando il rapporto tra l'astrologia e la musica. Per esempio, la nostra voce e il modo in cui cantiamo è dato dalla terza casa, quindi quello che c'è in terza casa ci potrebbe dare indicazioni sul modo in cui la persona canta. E la quinta casa, invece, che è quella dell'espressione e della creatività, ci dà un indizio, per esempio, su quelle che sono le tematiche su cui una persona compone, quelle che sono le corde creative. Io mi esprimo in modo magari non musicale, però... La terza casa ci dice il modo in cui si canta, la quinta ci dice cosa la persona compone, sempre in collegamento con quello che è il segno e quello che è l'ascendente. Quindi in qualche modo la più importante di tutte è la componente acqua, perché l'acqua è l'emotività, è la capacità di percepire in modo più diretto, più immediato la realtà. Ma questo vale per tutte le arti, Robert? Questo vale per tutte le arti, ma prevalentemente per la musica, perché altre forme più figurative o più, per esempio, la scultura, la pittura, sicuramente sono più allegate alla terra e all'aria, perché sono sicuramente più realistiche, più descrittive, conta di più il raffronto tra un originale e una versione estetica. La musica non ha un raffronto diretto, quindi in realtà è una percezione molto più immediata della realtà. Perché la musica è la forma d'arte meno compromessa col pensiero, cioè meno compromessa con il pettegolezzo della ragione. E quindi sono stato qualche tempo ad osservare le possibili relazioni tra le carte natali di cantanti e le loro espressioni musicali. E chiaramente ho approfittato anche delle selezioni di Sanremo, perché un campionario così, così vasto difficilmente poteva capitarmi. Senti, Robert, ma ti posso fare una domanda veramente meschina? Ma chi vincerà Sanremo? Dopo tanti studi, chi vincerà Sanremo? Questo l'astrologia non ce lo può dire. Anche se però ti posso dire una cosa, che alla fine hanno escluso quella che era la scoperta più interessante che io ho fatto da tutto quello che ho osservato di Sanremo. E allora, visto che l'hanno escluso, io te l'ho portato qua e si chiama Stefano Maiuolo. Ah, sta fuori dalla porta? Sì, è proprio là. Dai, vieni avanti. Vieni, ciao, vieni. Stefano. Buongiorno Barbara. Vedi, lui molto fa come piacere. Il gatto Zaccaria, che è il gatto del faro, che ogni tanto arriva e mi porta degli amici, dei pezzi delinquenti di gatti dei dintorni. Beh, che speriamo fanno delinquenti no. Ma tu hai un'aria molto graziosa e molto a modo. Stefano mi ha colpito sia per la sua carta natale che per la sua musica, che sono poi anche strettamente collegate. E intanto perché Stefano ha i due elementi che sono più importanti astrologicamente per la musica, e sono la terra e l'acqua. E poi per come questi due sono combinati, perché Stefano ha il sole in Capricorno, e quindi diciamo che il Capricorno sicuramente è un segno per cui è molto importante la tradizione e sono molto importanti le cose destinate a durare nel tempo, quindi non è un segno impaziente, non è un segno che è un segno che sa aspettare, ma sa aspettare nella consapevolezza di essere destinato a fare grandi cose. E probabilmente questo gioca nella carta natale di Stefano, nella sua, diciamo, passione per le tradizioni, per la musica antica, per tutti gli studi che sono, noi definiremmo classici. Dall'altra parte c'è invece un ascendente in Scorpione che dà tutta quella parte di emotività e tutta quella parte più noir, se vogliamo, che è alla base della sua espressività un po' irriverente, un po' sarcastica, un po' pungente. Ora sento arrivare un'emozione, un'astuta illusione, riempirmi la vita, una piantagione immensa di cose pericolose che mi trasportano lungo un sentiero tortuoso che tanto senso non ha, ma cosa sarà? E sarà intensa ma breve la soddisfazione che a lungo potrà condurmi alla morte, che dico, la sorte ha voluto così. E se sono qui è ora di agire, non voglio soffrire. Sai Stefano, mi piace molto questo pezzo perché è nello stesso tempo terribilmente intellettuale come testo, eppure mi sembra la rinascita della canzone popolare. Ci sono questi echi proprio da balli sull'Aia. E come nasce il tuo amore per la musica, la tua frequentazione, il tuo studio? Beh, l'amore per la musica nasce probabilmente quando stavo in pancia di mia madre, perché mio padre cantava, canta tuttora e suona tutti gli strumenti musicali. Ricordo come tutti gli strumenti musicali possibili e immaginabili senza aver studiato. Io infatti ho una tremenda invidia positiva nei suoi confronti. No, dal pezzo si capisce che tu non sei certo un autodidatta, avrai studiato come un matto. Beh, diciamo che grazie ai miei genitori ho iniziato a studiare pianoforte. Allora ho iniziato a studiare in conservatorio, pianoforte e composizione. Oggi, insomma, grazie al vivere giorno per giorno la vita di petto, inizio a scrivere i miei testi, che sono un po' una provocazione culturale in chiave ironica a quello che stiamo vivendo. Ma io non lo so che cosa sono, so soltanto che questa canzone io la ricanterò. Per me la misura di una canzone è quando tu la ricanti. Beh, fa piacere questo. Ecco, per esempio, questa cosa che ha appena detto Stefano, questa provocazione in chiave ironica, è proprio data dal suo ascendente in Scorpione, che in qualche modo dà una componente emotiva al tutto, però gli dà anche questa componente sarcastica, pungente, noir. E Stefano ha un ascendente in Scorpione, però è del Capricorno, e quando parlava dello studio della tradizione, del conservatorio, tutta questa componente probabilmente invece è data dal Capricorno, che è un segno per il quale lo studio è molto importante, che ha sempre dei progetti che contano, perché devono essere di lungo termine, devono essere cose che restano. Per cui probabilmente da un lato il Capricorno guarda molto nel futuro e guarda molto alle cose che farà, e dall'altro ha bisogno di conoscere bene la tradizione per poterla proseguire innovandola. E da questo punto di vista Stefano ha anche un'altra cosa molto interessante: ha Urano e Nettuno congiunti. Nettuno è proprio il pianeta che richiama la musica, e quindi è, diciamo, proprio la espressione musicale e l'ispirazione musicale. E Urano è l'imprevisto, la rivoluzione, il colpo di genio inatteso. Quindi in qualche modo questa cosa mi ha fatto pensare al fatto che Stefano sia destinato a innovare nel mondo della musica e in qualche modo nel fare questo richiama le tradizioni e le ripropone in modo completamente diverso. Su internet c'è tutto, guarda, guarda Stefano che suona Bach. No, questo è Stefano, lo zecchino d'oro, col mago Zurlì, che era già vecchio quando ero bambina io. E qui, e quanto è brutto, sembra un fumetto, cioè questa testina tonda, cioè questi denti tutti radi, è un amore. E canta una canzone bruttissima. Ah, è la storia di questo bambino ricco occidentale che si accorge che le sue bellissime scarpe e il suo bel pallone sono fatti da qualche schiavo dall'altra parte del mondo e lo invita, ma chi pagherà il viaggio? Lo invita a giocare con lui. È delizioso questo pezzo. Tra l'altro Stefano è veramente un grande esordio di artista, perché non ti si dà un futuro vedendoti qui nemmeno. Beh, guarda, in realtà questo pezzo ha segnato profondamente il mio percorso artistico, perché a parte che mi ha dato la possibilità di collaborare, di avvicinarmi alla musica in maniera conoscendo persone che hanno avuto un'influenza molto importante nella mia vita. Però l'anno scorso, finito Amici, uscì appunto questo disco che non era nient'altro che un pochino una mia piccola biografia fatta di cover, e in cui era contenuto anche questo pezzo che è stato riarrangiato facendo sì che cantassi io da grande e quell'audio di me che avevo 7 anni. Beh, perché ne hai imparate tante da allora, eh. Devo dire che se ne hai, veramente ne hai imparate molte. Ah, guarda qui su internet, c'è lui ad Amici con una cresta da gallo cedrone di mezzo metro, ma molto grazioso. Beh, a proposito di Amici, devo dire che è stata un'esperienza molto forte dal punto di vista psicologico. Mi ha dato tanta forza, e questo è quello che devo a questa trasmissione, anche alla De Filippi, che insomma mi ha voluto in quel cast. La musica inizia dopo, perché la televisione è sempre un contenitore filtrato di qualcosa che non si può esporre completamente. E quindi ho iniziato a scrivere la mia musica, sperando che piano piano possa essere un'ascesa senza più una discesa. Tra l'altro Stefano ha questa capacità di giocare con la musica, sembra un folletto, gli viene in maniera assolutamente naturale. Tu vai l'americano, americano, americano, sentami che tu fa va, tu vuoi vivere alla moda, ma se vedi whisky e soda, poi ti senti disturbato, tu abbagli un rock and roll. Sai Stefano, questo potrebbe essere anche un presagio che la tua musica vada nel mondo, perché con quel giove in nona mette le ali, puoi arrivare dove vuoi. Ma che ne so, magari questa canzone è un presagio, andremo in America e porteremo con noi anche l'Alberti. Io senza Gloria Guerrera non mi muovo. Yes. La guardiana del faro. Devo ringraziare Carlo dalla provincia di Mantova, il quale ha scritto che, ascoltando la biografia del poeta americano Bechet Lindsay, di cui ho parlato qualche settimana fa, ci chiede di ricordare e di leggere anche Emmanuel Carnevali, come scrive Carlo, così spesso avvicinato a Rimbaud, ma direi io che come un fratello più sfortunato. Carlo, mi ha fatto un gran piacere la tua richiesta, perché leggendo le poesie alla radio sta venendo fuori che c'è un vasto circolo di lettori di poesia. Anche una signora, un'insegnante, adesso non ho sotto mano la lettera, ci ha chiesto di leggere la poesia Contro la guerra di Owen, e lo faremo presto. Ma oggi ricordiamo, come chiede Carlo, Emanuele Carnevali, il quale fu fatto uscire dalla dimenticanza dal libro che tu citi, Carlo, Il primo Dio, che fu pubblicato da Adelphi nel 1978. Ho qui la sua prima edizione con la copertina arancione, quando ancora i libri Adelphi non servivano come arredamento. Non c'è una rivista di case, di interni o un dépliant di mobili addirittura che non metta i libri di Adelphi negli scaffali. Il primo Dio uscì a cura di Maria Pia Carnevali, la sorellastra di Emanuele, con un saggio finale di Luigi Ballarini. Ma per ricordarlo, noi seguiamo un articolo di Antonio Spadaro e potete trovarvelo integrale in rete. Emanuele Carnevali nacque a Firenze nel 1897 e la sua vita attiva, attivissima, dura fino ai 24 anni. Poi è colpito da una gravissima malattia, la sua via crucis durerà fino ai 44 anni. Il resto del tempo lo ha passato praticamente in ospedale. Carnevali diceva: «Semino parole da un buco della tasca». E Maria Corti, quando uscì il libro, commentò: «Carnevali è una bomba che esplode entro la nostra cultura d'oggi». E viene considerato uno dei migliori poeti italoamericani in lingua inglese. Come Picasso divide in colori la sua produzione artistica, così Carnevali divide la sua vita in colori: bianca l'infanzia, rosa l'adolescenza, perché drammaticissima pure questa, ma rispetto all'infanzia gli pareva un paradiso, e nera la sua giovinezza in America, che in verità fu avventurosissima e sotto certi aspetti esaltante. Dell'infanzia dice: ricordo una stanza bianca, con bianca luce di sole che filtra da alte finestre. In essa mia madre e una vecchia signora tutta bianca stanno chine su di me. Dalla Toscana poi si trasferiscono a Biella. Nel viaggio vedrà il mare pulsante, il mare di Ulisse e di Melville, un mare scherzoso di tante piccole onde e gli spruzzi che ci sputava in faccia. Tutto nello spettacolo del mare, il grande spettacolo del mare, volubile mare che cambia vestito tante volte, il mare di quel borghese di Conrad e il mio proprio mare, fabbricato dalla mia immaginazione e dalla sua presenza. Ha un rapporto pessimo col padre. Ci sono due creature che lui odia soprattutto: Dio, non credendoci, e il padre, che purtroppo invece ce l'ha lì. Lo definisce il più ignobile degli uomini. E per liberarsi del padre, soprattutto, a 16 anni, il ragazzo Carnevali prende una nave e se ne va negli Stati Uniti. È il 1914 e fa quello che definisce il grande balzo. Le grandi passioni di Emanuele sono la lettura e l'amore. Scrive: l'amore comprende in sé ogni nuovo stato d'animo, ogni necessità, ogni passione. Scrive Antonio Spadaro: egli vive amori e amicizie con la medesima intensità emotiva. L'amata Isolda è, parole di Carnevali, un poema di grazia e bellezza. Aprì il mio cuore e con le sue belle mani vi gettò dentro una manciata d'amore. Il compagno Giovanni è un amore vero, fervido, appassionato, stupendo. Quando lo tenevo per mano ero felice. Dopo l'avventura americana, nel 1922, torna a casa per via di una encefalite letargica. Da quel momento avrebbe trascorso il resto della sua vita negli ospedali, confortato dalle lettere dei suoi amici americani e anche da qualche visita. La morte sopraggiunse all'età di 44 anni in una clinica neuropsichiatrica di Bologna. E perché morì Carnevali? Non per la sua malattia, ma perché gli era andato un pezzo di pane di traverso. È strano come muoiono i poeti. Oh, lui definisce nero il periodo americano. Appena mette piede a Manhattan scrive: questa dunque era New York, una delle più grandi delusioni di tutta la mia vita infelice. Quei famosi grattacieli altro non erano che enormi scatole che si ergevano davanti a noi, terribilmente futili, spaventosamente poco importanti. Lì Carnevali fa di tutto, fa il lavapiatti in una trattoria e poi cameriere e conduce una vita sempre incerta, saltando da un posto di lavoro all'altro. Trascinavo questo mio povero corpo da un ristorante all'altro, non come cliente, ma come servitore. Lo portavo in miseria da un hotel all'altro. A volte erano le poesie che mi consumavano i pensieri, muovendosi come un esercito di formiche nel mio cervello oppure divorandomi come tanti vermi. Perché questa preoccupazione per le parole, pensavo, se non c'è nessuno che le ascolti? E invece lo ascoltarono, e come? Lo ascoltarono poeti come Ezra Pound, William Carlos Williams, come Carl Sandburg, e addirittura per alcuni mesi è stato condirettore della più prestigiosa rivista americana letteraria, che era Poetry, e quindi fu molto apprezzato. Era in corrispondenza con Palazzeschi, con Benedetto Croce, con Papini. Non pochi si accorgono questo è sempre Spadaro, del soffio selvatico della sua poesia. E il critico francese Michaud scrive: a Emmanuel Carnevali, un emigrato italiano, venne riservato il compito di purgare la poesia nordamericana da ogni artificio. Sotto ciascuno dei suoi versi c'è un uomo che soffre. In lui c'è un realismo non soltanto pittoresco, ma umano e commosso. Mentre gli imagisti saccheggiavano i musei e le biblioteche, Carnevali cercava la sua poesia nei ghetti e nelle taverne di New York e illuminava gli aspetti luridi e triviali della vita con una chiarità tutta sua, affascinante e buona. E la cosa più interessante di questo poeta è la lingua. È un poeta italiano che però scrive in inglese e giunge alla traduzione letterale in inglese di parole ed espressioni italiane che in inglese perdono di smalto, e si parla della sua clamorosa latinità. La questione della lingua per Carnevali è vitale. Dice: in italiano non so scrivere. La lingua è una creatura, sangue, nervi, muscoli. Bisogna conoscerla. E per chi ha provato a scrivere in un'altra lingua, conosce la libertà enorme che si prova, come se ci si mettesse una maschera smagliante che traveste il nostro dolore. L'inglese, scrive Carnevali, ha assunto per me l'aspetto di un dialetto italiano. La sua potrebbe essere definita propriamente una lingua esiliante, sempre Spadaro, nel senso che è una lingua che vive una permanente situazione di esilio. La lingua materna è l'italiano, ma la lingua letteraria è sempre e solo l'inglese. E infatti ci avverte Spadaro che le sue lettere a Papini, a Croce, a Palazzeschi sono piene di anglismi, e questa contaminazione genera un inglese complesso, cantante e saporito, sensibile alla musicalità in una lingua che è, questo è Carnevali, danza vertiginosa e jet impazzito, a dizzy dance and a mad jazz. La sua prima raccolta di versi liberi, composta a 21 anni, The Splendid Commonplace, lo splendido luogo comune. Vorrei una tromba potente come il vento per suonare al mondo lo splendido luogo comune. Il poeta, con occhi pieni di lampi e scintille, è chiamato a cogliere questo splendore ordinario. Carnevali, ripensando alla sua esperienza americana, che coincide con gli anni della sua giovinezza più piena ed esuberante, si definisce clown della sensualità. C'è anche dell'ironia in questa espressione che rivela il senso delle sue numerose avventure con le ragazze compiacenti che affollavano locali e pensioni. È molto interessante il suo rapporto con Dio. Dio è spesso nominato, ma sempre per essere negato. Scrive Carnevali: Cristo non ha mai cessato di essere immenso per me, e penso che il Vangelo sia il libro più bello che sia mai stato scritto. Tutto l'armamentario della divinità non ha fatto altro che danneggiare quell'uomo splendente che fu Cristo. La religione ha sempre torto, Cristo ha sempre ragione. Carnevali non abolisce la religiosità, ma la trasferisce nel campo dello sforzo umano. È l'uomo stesso a farsi Dio. Come scrive Whitman nel Canto di me stesso: divino io sono dentro e fuori, e rendo santo tutto ciò che tocco o che mi tocca. Lo splendido luogo comune, in questo albergo. Il capocameriere dice: bella giornata oggi, e sorride con sentimento. Il capocameriere dice: pioverà oggi, e si acciglia con garbo. Sono i saluti di ogni giorno, a ogni vecchia signora, a ogni vecchio gentiluomo, a ogni vecchio furfante, a ogni giovane coppia, a ogni cliente. E io, che non dormo in attesa dell'alba, vorrei un giorno scendere sul mondo. Vorrei una tromba potente come il vento per suonare al mondo lo splendido luogo comune. Bella giornata oggi! E un altro giorno griderei disperato: pioverà oggi! Per ogni vecchia signora, per ogni vecchio furfante, per ogni giovane coppia. Non sono forse clienti in questo albergo che per tetto ha il cielo, per pavimento la terra e per stanze le case, ma io, questa miserabile, stanca cosa, posso chiedere il posto di capocameriere in questo albergo? Sempre dallo splendido luogo comune, Sua Maestà il Postino, di Emmanuel Carnevali. 7:30 di mattina, e il sole mi strizza l'occhio, seminascosto dall'ultima casa della via. Le sue lunghe dita gettano in fuga questi omettini al trotto, che corrono da est a ovest al loro lavoro. Ridendo, il sole li insegue. Ah, eccolo! Chi? Il postino, naturalmente. Perché mi sarei alzato così presto? Lui non lo vedete mai di fretta. È così fiero, perché nella sua borsa sudicia porta la mia felicità. Un bacio della mia ragazza. Del denaro per mangiare e un bel colletto bianco. Ecco perché si pavoneggia così. Ecco perché fa finta di non sapere che il sole ridente è alle sue spalle. E lo sospinge a portarmi la mia felicità. Un bacio della mia ragazza, dei soldi per mangiare e un colletto pulito. E la lettera di un direttore che dice: siete un grande poeta, giovanotto. Al diavolo. Scommetto che mi ha sentito smaniare per lui. È passato davanti alla porta e non si è nemmeno girato. Che fare? Oh, non importa. Domani. Domani. Sempre Emanuel Carnevali, quando è passato. L'amore. Io pensavo fosse una lunga gita in barca sul lago tranquillo. Intorno, i salici piangenti lasciavano cadere nell'acqua le chiome e fra quelle chiome i raggi che il sole, andandosene, aveva dimenticato. Ma ora che è passato, so che era un fiume travolgente e fragoroso che distruggeva tutto, tutto. Nell'anima non mi è restato che un cespuglio che oscilla e ondeggia al vento come i capelli di una strega, che sibila e maledice il vento come il braccio spaventoso di una strega. Ed è ricordo. Per salutare Emanuel Carnevali gli dedico dei versi di Majakovskij. Chissà se incontrandosi si sarebbero piaciuti o presi a schiaffi per troppa somiglianza. Ecco cosa scrive della poesia Majakovskij, e va benissimo secondo me per la poesia di Carnevali. La poesia. Siediti e frigna sulla rosa, dice il poeta. Per me è intollerabile anche solo l'idea che la rosa non l'ho inventata io. E ancora, la poesia è una cosa canaglissima. Esiste, e tu prova a cavartene. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Lei era amica di mia madre, poi professoressa di mio fratello, poi, forse, breve amore di mio padre. Il tutto senza rivolgermi mai la parola direttamente, e io, fin da bambino, ardevo per lei. Alla lettera, come un legno che brucia, e una timidezza che cresceva con l'amore, col ridicolo di una differenza d'età veramente eccessiva. Poi conosco qualche ragazza che ci sa fare. Mi libero dell'ossessione. Me la ricordo qualche volta, immaginandomela imbiancata, vegliarda. La rivedo per caso, a Cuba, fuori di ogni impaccio familiare. E ora sto con lei. Io 26 anni, lei 48. Ora che sono uomo, le do in ritardo tutto il mio desiderio di ragazzo, quando per la prima volta mi scelsi una di capelli rossi, come lei. Tempo fa stiamo 2 giorni da soli, nella sua casa in campagna. Un ritiro fatto di felicità. La sera io la cerco, la chiamo e niente. Mi sgomento. E mi dico che se la sua assenza deve costarmi tanto, farò qualsiasi pazzia, ma non mi separerò mai da lei. E finalmente eccola, addormentata profondamente nel salottino. Da dietro, bella e fragrante come l'addormentata di Perrault. Mi chino su di lei e per poco non caccio un urlo. Nel sonno, la mano poggiata sotto la guancia, le tira la pelle della faccia, disegnandola rugosa come sarà fra 10 o 20 anni. La osservo senza svegliarla, affascinato dalla precisione di quella mappa che anticipa la geografia della sua decadenza. Non solo, ma la fa così arcigna e sconosciuta. Il mio occhio impietoso rapisce ogni particolare. Lei di colpo si sveglia. Mi vede, urla, terrorizzata, come se avesse davanti il suo assassino. Io la rassicuro, più spaventato di lei, ma le parole non cambiano i fatti. E i fatti sono che eccoci lì, tutti e due, impietriti dall'evidenza. Quell'episodio involontario non riesce a uscirci di mente. Non ne abbiamo più parlato, ma ora ogni manifestazione di passione è annientata da quell'unico attimo di consapevolezza che ci ha colte di sorpresa. Lo abbiamo sentito, che ci siamo incontrati per farci male. E il resto sono chiacchiere. Riccardo in pensiero. Amanti, lasciatevi. L'amore è fatto per questo. Se si rimane insieme, oltre l'amore, scatta l'associazione delinquere. 2-3 coppie in ogni secolo ce la fanno. Ma se hanno un grande interesse comune, un grande scopo, i coniugi Curie, Aurobindo e Maher, non so di nessun altro che sia riuscito a non cadere nella previsione della durata e della fine. Ma se non siete né Curie né Aurobindo, lasciate stare. Meno male che Eros colpisce a caso, qua e là. Ta, secco. Se no, addio funzione eversiva dell'amore. Se no sarebbe una noiosissima agenzia di collocamento conforme, come tutto quanto. Fortuna che lui non ci bada, lui, Eros. L'ha già detto Majakovskij quando Yesenin, altro poeta disordinato, scrisse l'addio col sangue all'Hotel Angleterre. Meglio morire di vodka che di noia. O rischio o garanzia. E se proprio non ce la fate, sposatevi. Come diceva un'amica mia, che poi si è sposata ed è stato un inferno. Cara Barbara, mi chiamo Riccardo e ho 39 anni. Mi trovo in una situazione che non so più come gestire. Una collega coetanea pare si sia innamorata di me. Lei è intelligente, in gamba e anche carina. Ha già attraversato in passato una grave delusione d'amore e ora ha trovato in me qualcosa che non ha mai colto in tanti suoi amici e amanti. Siamo in sintonia su tantissime cose. Per questo mi piace frequentarla, fare qualche weekend in giro per l'Europa, uscire a teatro, cene. D'altra parte non potrà mai esserci nulla di più dell'amicizia tra me e lei, come tra me e qualunque altra donna. Il distacco fisico, paradossalmente, la attrae sempre di più. Abbiamo anche affrontato l'argomento, il mio rifiuto, e ho sempre inventato scuse del tipo che non voglio rapporti con colleghe, che non è il mio tipo. In effetti, non è un uomo. Sono stato molto chiaro nel dirle che non ci sarebbe mai stato nulla tra di noi. Mi sento avvilito perché da un lato non voglio perdere la sua amicizia, dall'altro non voglio che perda tempo ed energie con me perché vedo che non si guarda intorno, che deride gli altri uomini che le si dichiarano. Tra l'altro il mio compagno comincia a non poterne più della sua intromissione. Uscite, viaggi, messaggi SMS. E posso capirlo, ma non teme nulla perché sono troppo innamorato di lui. Forse non voglio rivelare la mia omosessualità perché temo di deluderla o che, presa dalla rabbia, diffonda il pettegolezzo. Ti assicuro che nel mio ambiente di lavoro sarebbe la fine. Hai qualche consiglio? Ma poveraccio il tuo ragazzo. Io, più che della ragazza, mi preoccuperei di lui. Tu dici non ha nulla da temere perché io sono troppo innamorato. Senti, sarai pure innamorato, ma stai flirtando a tutta birra con una ragazza che si è fatta le sue belle illusioni, e non a caso, voglio dire, e che non sapendoti impegnato si prende ogni libertà. E poi tu sei attratto da lei, meno che per il letto, per tutto il resto. I viaggi, gli SMS, le complicità, le risate, come fai a dire che non c'è niente? Tutto questo è niente? C'è un legame, c'è che sei lusingato dall'amore di lei e a tuo modo lo corrispondi, perché è impossibile tracciare una linea fra un'amicizia e un amore. Non si fanno fine settimana all'estero se non ci si diverte da pazzi insieme. Al tuo ragazzo stai mettendo le famose corna bianche, quelle che fanno più male. Tu pensa che tortura per lui assistere a questo rapporto ambiguo col tuo alibi inaccettabile. Ora, se tu non vuoi dire a lei che ami un altro per evitare di essere linciato al lavoro, non ti giudico, conosco troppo bene il nuovo clima di insofferenza e di oscurantismo per biasimare la tua prudenza. Ma allora potresti dirle che ami un'altra, senza bisogno di... o un'altra persona, senza specificare che si tratta di un uomo. Tu rischi di guastare un amore vero per un flirt, nel quale ti sei lasciato molto andare. Basta che smetti di far finta che non stai facendo un torto al tuo compagno, perché, vedi, è questa finta innocenza che manda ai matti chi ama. Tu non puoi fare la parte di quello che viene trascinato, tu ci stai per morto. Ti piace anche questo gioco pericoloso? Dici che mai potresti con una donna. Ma guarda che è una difesa e forse anche un pregiudizio. Una volta o l'altra hai visto mai, potresti perfino essere tentato da una donna. Non puoi escluderlo. Tu non sai quanto siete a rischio. Ci avete fatto intorno una tale impalcatura sentimentale, piena di desiderio represso, anche se solo da parte di lei. E la nostra società crea delle grandi barriere tra un'inclinazione sessuale e un'altra, perché ha paura della libertà e ci tiene molto all'identità sessuale, un'ossessione moderna. E la nettezza delle divisioni è figlia della repressione, omosex, bisex, eterosex. Io credo